Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Customer satisfaction, addio, arriva la human satisfaction. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo dei nostri approfondimenti parliamo dei nuovi scenari per la comunicazione di impresa, scenari in cui etica e business possono convivere. Prezzi, supermercati e concorrenza tornano in primo piano nello spazio dedicato alla grande distribuzione. Escaping, infine, il tema del nostro focus sui trend quando la fuga dalla realtà, questa la traduzione, fa tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Le collezioni di borse degli anni 50, il celebre tema Flora, gli abiti disegnati per le celebrities e l'evoluzione del logo Gucci. C'è tutta la storia del marchio, fondato nel 1921 da Guccio Gucci, nel Gucci Museo, appena inaugurato a Firenze. Aumento dell'IVA e rincari. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha avviato ispezioni e verifiche per contrastare i comportamenti speculativi. Finalmente Mister Prezzi si è svegliato, fa notare il Codacons. Peccato però che i controlli dovevano essere fatti molti giorni fa. Si terrà a Milano, da domani al 9 ottobre, la settimana della comunicazione. 100 appuntamenti gratuiti, tra incontri, eventi, mostre e seminari, all'insegna per questa seconda edizione della comunicazione consapevole. La fretta in cucina batte la crisi. Vendite record per il prosciutto già affettato, i formaggi già grattugiati e la verdura lavata e tagliata. Sono questi, secondo i dati Nielsen resi noti da Coldiretti, i prodotti che fanno registrare il maggior incremento nei consumi del 2011. Si apre domani a Forlì la seconda edizione della Settimana del Buon Vivere. Una settantina di eventi per indagare la possibilità di passare dal prodotto interno lordo al benessere interno lordo, dal PIL al BIL o PIL della felicità. Il PIL misura tutto tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta, diceva Bob Kennedy. La borsa della spesa. Flacchia, siccome ormai tutti sappiamo che lei è un mediocre, ma cosa dico mediocre? Lei è la quintessenza della mediocrità. E siccome dobbiamo lanciare un prodotto al cioccolato che soddisfi un po' il gusto del consumatore medio, che vorremmo chiamare il sempliciotto, ecco, lei che è un mediocre li assaggerà tutti e ci dirà quale le piace di più. No, grazie. Io odio la cioccolata. Lei assaggia! Le consiglio di non insistere. Io le ordino di assaggiare il sempliciotto! Avanti, prenda, apra la bocca! Direttore! Se il consumatore medio si ribellava anche ai tempi di Fracchia, figuriamoci adesso. È proprio arrivato il momento di cambiare. Sostenibilità ambientale, solidarietà, etica d'impresa, tutti concetti che la crisi ha portato ancora più in evidenza, perché cambiare il modo di fare business e sviluppo si può. Innanzitutto trasformando nel marketing il concetto di customer satisfaction in quello di human satisfaction, mettendo cioè l'essere umano al centro delle attenzioni e degli obiettivi delle imprese. Se l'impresa di domani vuole sopravvivere, deve considerare il proprio cliente non più consumatore ma persona, ci dice Marzio Bonferroni, il sostenitore di questa teoria, autore di Human Satisfaction e La nuova era della comunicazione. Chi si sente battezzare da consumatore spesso si ribella, non vuole sentirsi appiccicare l'etichetta del consumatore, cioè l'essere umano si ribella, vuole essere considerato il cliente, la persona, il cittadino, come lo vogliamo chiamare. L'essere umano fortunatamente è fatto prima di emozioni, poi di ragione, poi di etica, ma tra loro strettamente correlate. L'errore grave della customer satisfaction è che si posiziona solo in un'area, o quella funzionale per lo più, o quella puramente emotiva, come nel caso della pubblicità. Oggi, in un moltiplicarsi di marche in ogni settore, in un moltiplicarsi enorme di messaggi e in una crescita anche qualitativa del pubblico, la pubblicità non può più da sola riuscire a generare relazione e fidelizzazione, come faceva negli anni 60. Occorre un cambio di paradigma, perché i pubblicitari, con gli uomini di marketing, con gli economisti, con le discipline umanistiche, si possano finalmente trovare in quello che mi sono permesso di definire il nuovo creativo, un team multidisciplinare. Il nuovo creativo, team multidisciplinare, può raggiungere la soddisfazione delle tre aree allargate dalla customer alla human, che sono l'emozione, la ragione e l'etica. Far convivere etica e business è il precetto fondamentale della cosiddetta CSR, o responsabilità sociale d'impresa. Sono sempre di più i brand che riescono a sposare progetti in cui il bene comune e quello aziendale coincidono, come i progetti di Monumental Cleaning, la pulizia di monumenti storici e opere d'arte, che Kärcher, azienda tedesca leader nella produzione di macchine per la pulizia, realizza da anni. Suoi pensate gli interventi sulla Statua della Libertà a New York, su quella del Cristo di Rio de Janeiro, sulla Porta di Brandeburgo a Berlino, sul colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma, fino alle sculture dei presidenti americani del Monte Rushmore. Progetti che realizza a proprie spese per aumentare la brand reputation, ci spiega l'amministratore delegato di Kärcher Italia, Enzo Fiume. È un'attività che è nata storicamente dal nostro fondatore in poi. Abbiamo cercato di mettere a disposizione le nostre competenze e anche risorse, perché facciamo questa cosa con investimenti nostri. È chiaro che abbiamo un ritorno di comunicazione, però è un investimento che mettiamo a disposizione. Cosa facciamo? Individuiamo monumenti, opere d'arte, luoghi di riferimento importanti sia in Italia che nel mondo, e interveniamo con operazioni di pulizia. Alcune sono anche state molto spettacolari, mi riferisco all'intervento di pulizia dei visi dei presidenti degli Stati Uniti sul Monte Rushmore, piuttosto che la pulizia del Cristo di Rio de Janeiro, il colonnato del Vaticano a Roma. In questo caso abbiamo un impatto molto importante, quindi si tratta di un evento di comunicazione, ma un evento pratico attraverso il quale l'azienda dimostra nei fatti le proprie competenze di pulizia, e nel contempo portiamo un risultato utile e visibile alla collettività. Cambiamo argomento. Lo sapete che ogni famiglia spende in media 6.300 euro all'anno per fare la spesa, ma dove c'è più concorrenza tra punti vendita si risparmiano in media 700 euro. Mai come quest'anno i prezzi sono cambiati da una città all'altra, meglio da un quartiere all'altro. Codice a barre di Luigi Rubinelli. L'ultima survey di altro consumo sul settore del largo consumo è interessante per diversi motivi. Innanzitutto conferma il trend sociale. Gli anziani sono determinati nel fare la spesa, scelgono i negozi vicini o meglio sotto casa. È un problema di sicurezza, di costi dell'auto, di distanze fisiche dall'ipermercato, e poi c'è un rapporto diverso, più personale, con gli addetti alla vendita, altro che grandi superfici dove nessuno ti conosce. Ulteriore novità interessante che la survey mette in risalto è che ogni negozio ha una propria politica di prezzo, soprattutto per le marche più note. Conta il rapporto con il bacino di utenza. Se non c'è concorrenza è inutile abbassare i prezzi, conviene tenerli alti e mettere in cassa marginalità a compensare altre zone dove la competizione è più accesa. A proposito di zone competitive, Firenze si conferma come uno dei mercati più turbolenti per lo scontro continuo a suon di riduzione dei prezzi fra Esselunga e Unicoop Firenze. Ma anche Verona non scherza, qui sono presenti praticamente tutte le insegne e il discount è più agguerrito che mai, logico che i prezzi siano davvero bassi. In questa zona è attivo l'ipermercato Galassia, leader del risparmio. I ricercatori di altro consumo lo mettono a confronto con U2, l'insegna del gruppo Unes che pratica l'Everyday Low Price. Questo è un errore, perché U2 è un piccolo supermercato e quindi non si può confrontare con un ipermercato. U2 comunque, seppur piccolo, si conferma campione della convenienza. Siamo al solito. Davide batte Golia. Essere e avere. Oh, Di nuovo in studio con Essere e Avere, quella che avete appena sentito è Hatsune Miku, pop star giapponese che vende milioni di dischi, riempie gli stadi, vanta fan persino negli Stati Uniti, anche se, piccolo particolare, non esiste. È un ologramma animato che canta grazie a un sintetizzatore. Cliccate il suo nome su YouTube e ne avrete la prova. Troverete il video di uno dei suoi concerti. Ci sembrava il modo migliore per introdurre il focus sui trend di oggi. Parliamo di una tendenza che va sotto il nome di escaping, fuga dalla realtà. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Cantanti fantasma, ma non solo, c'è il cioccolato da sniffare e non da mangiare, gli smelling bar, gli aromi che cambiano sapore ai cibi, i vestiti digitali, gli strumenti musicali invisibili, gli impiegati ologrammi negli aeroporti, il tutto all'insegna, appunto, lo avrete capito, della fuga in un'altra dimensione. Patrizia. Il successo della diva androide Hatsune Miku, questa ragazzina cartoon sedicenne con lunghissimi codini azzurrognoli, di fatto è un software diventato personaggio animato in 3D, idolo per milioni di giapponesi, ma non solo. È un caso esemplare che interpreta il desiderio dei giovanissimi, ma non solo, di cose irreali, questa voglia di stare da un'altra parte, per esempio in questo caso nel mondo sintetico un po' futuribile di Miku, che significa alla lettera la prima voce udita nel futuro. Dal 2007, anno in cui la Krypton Future Media ha lanciato il software che si chiama Vocaloid, è una crasi tra vocal e android, tra l'altro Miku è solo uno dei 6 personaggi inventati per ogni voce, la sua riconoscibilità, il suo impatto sul mondo dei consumi non musicali sono cresciuti a dismisura. Oggi questa star digitale 3D, che appunto è sbarcata anche a Los Angeles, è testimonial per esempio di spot pubblicitari, quello della Toyota Corolla per il mercato USA, ha ispirato flash mob, viene citata in episodi di serie televisive, è protagonista di ben 3 videogiochi di Sega, Project Diva, Project Diva 2 e il 3, ha fatto la comparsa anche in altri, c'è naturalmente un manga, un fumetto intitolato Hatsune Miku, numerosissimi cosplayers, cioè i fan che si vestono come lei, ed è al centro evidentemente della creazione collaborativa di contenuti delle numerose comunità di fan che illustrano, remixano, animano, insomma sviluppano nuove versioni di questo software vocale. Se sul palco non c'è nessuno ma un ologramma cartoon, non ci preoccupiamo. Se non c'è nessuno all'imbarco in un aeroporto, nemmeno. Da gennaio i passeggeri in partenza da Manchester e ora anche da Orly, Parigi, vengono assistiti per alcune operazioni speciali o appunto per l'imbarco da delle sagome digitali degli assistenti di terra, sostituiti dalla loro stessa versione appunto olografica, che si materializza davanti ai passeggeri su richiesta premendo un pulsante. Quindi gli ologrammi ci parlano e gli aeroporti diventano per qualche minuto degli iperluoghi futuribili illusori. Illudere con suggestioni olfattive è l'idea degna di nota della vasta scelta di aromi alimentari naturali della boutique del sito Dukan, celebre regime dietetico. Possono essere alcolici, alla frutta, dolci o salati, trasformano i cibi in altro, ingannando i sensi di fatto, e interpretano anch'essi un bisogno di gusto sganciato dalla fisicità calorica dei cibi o delle bevande, quindi dal cognac alla crème brûlée, dal burro fuso al torrone, ai dukaniani ma anche agli altri non resta che farsi trasportare da questi aromi ad altissimo potere di escapismo, immaginando di mangiare il cibo proibito. Il concetto di fuga dalla realtà, fuga in un'altra dimensione, ispira da sempre il mondo della letteratura, del cinema e della televisione. Fra i tanti titoli abbiamo scelto Terra Nova, la costosissima serie TV prodotta da Steven Spielberg, vero e proprio evento di questa stagione televisiva. Debutterà in Italia su Fox il 4 ottobre, è ambientata almeno in partenza nel 2149. La Terra sta morendo, gli esseri umani sono a rischio estinzione. Per capire gli errori del passato e cambiare il corso del futuro, alcuni di loro verranno rispediti indietro nel tempo, 85 milioni di anni prima. Se partiamo non possiamo più tornare indietro. Qualunque cosa accada, non fermatevi. Getteremo le basi di una nuova civiltà. Benvenuti a Terra Nova. Benvenuti a casa. Abbiamo fatto la cosa giusta venendo qui, vero? Ricominceremo da capo, come una mia famiglia. Tu eri un poliziotto. Mi serve solo una pistola e un distintivo. Ci saranno dei criminali da catturare qui. Patrizia, quanto è potente nell'immaginario collettivo l'evocazione di un mondo fantastico? Escapism è una tendenza legata esattamente al potere della suggestione, dell'evocazione di mondi fantastici alla lettera, cioè prodotto della fantasia. È anche un'abilità degli individui contemporanei, lasciarsi la vita alle spalle per un po' e fare consapevoli e soddisfacenti esperienze illusorie. Nel micro, lo anticipavi, il cioccolato da sniffare di Le Whiff, per esempio, che viene respirato ma non mangiato, o un cocktail alcolico di cui non si ingerisce una goccia, quello che si consuma per esempio in uno smelling bar di Londra e va inalato responsabilmente prima di mettersi alla guida. Anche una semplice candela può creare un come se, una dimensione di realtà parallela. Questa va accesa mentre si legge la rassegna stampa mattutina dei giornali digitali su iPad. È profumata, niente poco di meno, che con l'essenza del New York Times appena uscito dalle rotative. Ma si può fuggire dalla realtà anche con gesti più definitivi, per esempio con un lavoro diverso. Escape the City è il progetto di un portale londinese dove trovare opportunità lontane dal quotidiano, tipo fare lo stalliere ad Alessandria d'Egitto, diventare microimprenditore sociale o continuare a fare il lavoro che si fa, per esempio l'analista finanziario, ma in un'altra città. Vera è la collezione della scorsa primavera estate della fashion designer Iris Van Herpen, è intitolata proprio Escapism. Ha fatto sfilare misteriosissime creature simili a meravigliosi insetti luminescenti, richiamando universi immaginari che è riuscita a tradurre in abiti naturalmente indescrivibili, ma capaci con un normale gesto, cioè quello di indossarli, di spostarci dal futuro al passato un po' dove si vuole. Escaping è anche rifugio negli spazi urbani. Su paris.unlike.net oppure amsterdam.unlike.net, London, eccetera, sono ben 13 queste piattaforme sito per turisti che, accanto alle voci di menu tipiche dei siti guida come eventi, cultura, storia, hotel, cibo, eccetera, hanno inserito la voce escapism perché è una precisa esigenza di questi turisti. Il target dichiarato è mobile generation, altri li chiamano cool hipster, non ci interessa in questo momento la definizione, ma appunto la loro domanda è il tipo di offerta turistica. Questi siti propongono luoghi di fuga urbana inediti, per esempio dove prendere il sole a Parigi, oppure il Marché aux Fleurs, che di domenica con gli uccellini diventa una piccola giungla urbana sulle rive della Senna, oppure ad Amsterdam una sauna déco o una spiaggia artificiale, un corso di arti circensi a Londra, oppure wakeboarding sulle acque del Templiner See a Berlino e ancora a Shanghai il mercato degli insetti. Rimaniamo sulla parola escapism. Su urbandictionary.com il lemma escapism diventa protagonista della linea customizzata di tazze, magneti, t-shirt, eccetera, con la stampa del termine e l'intera spiegazione della fuga dalla realtà, quale che sia il motivo, dalla paura alla voglia di evasione da tenere addosso o comunque come monito o come un invito sempre sott'occhio. Cosa c'è di nuovo a Ulu, Finlandia, su Escaping e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia, bentornata. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ogni anno a fine agosto questa cittadina ospita i campionati mondiali di air guitar, ovvero l'arte di suonare uno strumento che non c'è. Avete presente il gesto che almeno una volta nella vita ogni ragazzino ha fatto tra le mura della sua cameretta ascoltando la sua rock band preferita? Bene, è proprio in questo che consiste la specialità. Il festival, giunto alla sua 16ª edizione, riunisce non solo i campioni, ma anche semplici appassionati che arrivano da tutto il mondo. I concorrenti salgono sul palco e musica a tutto volume, preferibilmente metal, fanno volteggiare un plettro immaginario su corde invisibili, mentre agilmente le dita e il corpo si muovono al ritmo della musica. Non è necessario saper suonare lo strumento reale, ma se le dita della mano sinistra mimano i veri accordi, la perizia verrà apprezzata dai giurati, che danno voti da 4 a 6. La performance è poi ovviamente completata dal look e dalla dose di teatralità e espressività che si riesce a imprimere, abbandonandosi completamente alla musica e trasformandosi in una vera rockstar. Il fenomeno sta prendendo piede anche nel mondo della nightlife e dell'entertainment, tant'è vero che tra New York e Los Angeles si moltiplicano i locali e i roche, dalle parole air e karaoke appunto, in cui invece di cantare si finge di suonare la chitarra. Grazie Alessia. Patrizia, tendenza spalancata sul futuro, lo rivelano molti degli esempi che abbiamo fatto, ma a rischio deriva, la fuga dalla realtà applicata ai consumi può diventare preoccupante, patologica persino? Abbiamo usato escaping e non escapism, che pure è stato citato, cioè abbiamo tolto l'ismo che rende tutto più ideologico oltre che patologico. Quindi il nostro punto di vista sui consumi non può prescindere dalle derive negative che certo ci sono, come in tutti i fenomeni, ma sottolinea le opportunità di prodotti e servizi capaci di spostarci come individui consumatori dal reale. Quindi oggetti che interpretano il nostro desiderio di togliere peso alle esperienze rutinarie, di entrare e uscire dal nostro quotidiano rifugiandoci in mondi paralleli temporanei. Questo convive con una ricerca di ancoraggi alla realtà, però dice di una voglia di rintanarsi in una qualche bolla, spostarsi occasionalmente altrove, e in questo senso il mondo digitale, se ci pensiamo, rappresenta una dimensione assolutamente reale, ma è un tipo di realtà meno faticosa e tirannica di quella quotidiana nella quale fare continue sedative incursioni. Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre critiche anche, ne faremo ovviamente tesoro. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, dove potrete riascoltare e scaricare questa come le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.